può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18-8 minuti, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua anche di venerdì fino alle 20.30 insieme, aspettiamo i vostri interventi, cominciate subito a digitare il numero verde per intervenire, 800 24 00 24. Se invece volete chiacchierare, dialogare virtualmente in tempo reale però con noi, ci trovate su Twitter, l'account del programma è @ si può fare 24. Anche oggi aspettiamo da voi indicazioni su un personaggio della settimana. Anche oggi mettiamo in palio i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Dunque, il primo indizio che vi diamo è questo: si tratta di un personaggio globale. Che per la mentalità britannica, talvolta leggermente razzista, gelato vuol dire Italia, cioè gli inglesi amano venire in Italia a mangiare gelato e quindi hanno messo questo come un tocco ironico, diciamo, se vogliamo. La copertina dell'Economist con la barchetta fatta con l'euro che sta affondando, la Merkel, Hollande, Draghi che svuota con un secchiello, ma la barca va a fondo lo stesso, e Renzi col gelato, e Renzi è quello più ridicolizzato di tutti. Qualcuno si è sentito offeso per questa copertina che ieri abbiamo definito una copertina un po' grillina, sembra uno di quei fotomontaggi che ci stanno sul blog di Beppe Grillo ogni tanto per commentare le notizie. Verini del PD invece, come dire, ci trova anche uno spunto ottimistico, positivo a tutti i costi, sentiamolo. E questa la sfida di Renzi e un po' di tutti noi, quella cioè di dare credibilità al paese per se stessa ma anche per l'Europa. Facciamo sul serio, lo vogliamo riformare sul serio e magari anche mangiando un gelato, un buon gelato artigianale italiano, che non fa male, ma questa deve essere l'immagine che dobbiamo capovolgere, un paese serio. Da italiano mi sento umiliato per come veniamo trattati, come vedete anche dai giornali esteri, eccetera. Certo, molto è anche colpa nostra. Un bacio al cioccolato, io te lo rubai. Io credo personalmente che Berlusconi sia andato in politica per risolvere i suoi problemi giudiziari e quindi affidare al ladro il controllo della banca a me non piace. E così che non mi piace questa equazione, non mi piace il fatto che sia Berlusconi a riformare la giustizia. Cioccolato. Così sento che avete possibile che tante realtà possono fare una manifestazione, un incontro al Circo Massimo e non lo può fare il Movimento 5 Stelle? Allora io su questa domanda la pongo e la pongo in modo formale al sindaco e a chi deve dare le autorizzazioni. Siamo o non siamo tutti uguali? Una proposta che arriva da alcuni esponenti di Forza Italia, tra cui anche Maria Stella Gelmini, appoggiata anche dalla Lega, chiede che le preghiere, i sermoni dentro le moschee in Italia vengano fatte in italiano, per l'appunto. Una proposta che appare sensata. Pensate al caso dell'imam che predicava ovviamente in arabo e diceva che voleva vederli morti uno per uno e parlava degli ebrei. Una proposta che appare sensata, però non semplice da realizzare, perché in tutte le religioni del mondo si prega in una lingua, gli ebrei pregano in ebraico, anche nella Chiesa cattolica si pregava in latino, adesso no, i buddisti pregano nella loro lingua e via dicendo. Per i musulmani la lingua è l'arabo, la lingua del Corano, però alcuni musulmani in Italia dicono già si fa, perché si prega sia in italiano che in arabo, per far capire anche a chi magari l'arabo non lo conosce più. Ancora Zaia su un altro tema, quello della crociata contro l'elemosina. No, guarda, se tu hai fame e io ti sfamo, ti do un panino, ti do un litro di latte. Certo è che condivido appieno la linea che si sta tenendo a Padova, nel senso che era l'occasione anche per mettere un punto fermo, il che non vuol dire che l'unica lettura sia quella del razzismo come qualcuno vuol dare, ma è anche vero che bisogna porre fine a tutto quello che sono queste modalità che vanno oltre alla ricerca del pezzo di pane per sfamarsi. Se a 31 anni lei tifa per Parecchio, magari. Sono preoccupato, cioè, per i suoi 31 no, anni, guardi, abbia lei pazienza. Lei ha criticato. Io ho valutato di più quello che Tavecchio ha fatto in Africa con le squadre di calcio, anche per bambini, con le squadre di calcio femminili. Dall'altra parte probabilmente la Chienge non avrà mai detto una parola fuori posto, ma nel suo lavoro di ministro dell'integrazione, mi spiace, ma il risultato è nullo. Quindi forse una frase detta male chiedendo scusa, questo mi sembra assolutamente riconoscere l'errore, un elemento fondamentale, ma l'aver fatto molto vale di più che un giudizio di una frase. Carlo Tavecchio, che nel frattempo è tornato così a commentare, a spiegare la decisione della FIGC, la prima assunta sotto la sua presidenza, di non chiudere subito le curve per via degli sfottò territoriali. Sentiamolo. Un'operazione che era già stata impostata dalla federazione. Abbiamo ritenuto che un intervento, diciamo, punitivo in prima istanza con la chiusura delle curve fosse esagerato e non fosse in sintonia con i regolamenti dell'Europa. 800 24 00 24, vi ricordo anche che cerchiamo un personaggio questa settimana, un personaggio legato ad una notizia. Il primo indizio che abbiamo dato è che è un personaggio globale. Chiudiamo con Marco Rizzo, ve lo ricordate, quello dei comunisti italiani, adesso credo leader di un altro partito minuscolo di comunisti, che dà la sua interpretazione della situazione attuale nel mondo e dice: crisi fa rima con guerra. Il capitalismo negli anni della prima guerra mondiale ha risolto la crisi con la guerra, e questo capitalismo risolverà questa grande crisi con una guerra, solo che le prime due guerre mondiali c'erano quando non vi erano le bombe atomiche. Adesso ci sono le bombe atomiche. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli. Buonasera Ivan Scalfarotto. Buonasera. Allora, viva la mamma, talmente viva che adesso c'è una bambina in Italia che di mamme ne ha due, ufficialmente, perché c'è una sentenza, lo avete sentito anche nel corso della giornata, dei notiziari del Tribunale di Roma, che ha stabilito proprio questo, ha riconosciuto l'adozione da parte della mamma non biologica di una, insomma, coppia di donne lesbiche, che delle due una era la mamma biologica, l'altra era la compagna. Una sentenza storica, Scalfarotto, però... sono sempre i tribunali a stabilire quello che succede in Italia, mai il Parlamento. Purtroppo ha ragione a dire questo. E io penso che quando diciamo così, sono i magistrati a decidere sui diritti delle persone, è comunque una sconfitta per la politica. Purtroppo di queste sconfitte ne abbiamo inanellate parecchie, penso alle recenti sentenze della Corte Costituzionale sulla fecondazione medicalmente assistita, penso al quel tribunale toscano che ordinò la trascrizione di un matrimonio tra due uomini concluso negli Stati Uniti, penso anche a quella di oggi. Sì. Io credo che la politica dovrebbe essere più coraggiosa e davanti alla società che cambia, trovare dei modi di regolamentare questa società, perché poi la storia va avanti e non la si ferma in nessun modo, per cui la politica o regolamenta le cose che accadono e prende atto della realtà anche quando non le piace, oppure subisce degli autogol. Fra l'altro, politica superata non solo dai tribunali, ma anche dalle aziende. Anche oggi sui giornali qualcuno fa una rassegna di tutte quelle aziende che riconoscono una serie di diritti ai compagni omosessuali dei loro dipendenti. Quindi, cioè, come dire, la politica che perde colpi da tutte le parti. Ma l'articolo a cui si riferisce oggi su Repubblica, sì, parla di una fondazione che è la fondazione che io ho fondato, che si chiama Parks, e che appunto ha lanciato un indice di questo tipo. Guardi, io penso che le cose stiano esattamente in questo modo. La società intorno a noi cambia con una rapidità spaventosa e va anche in direzioni che non sono sempre semplicissime. Ora, diciamoci la verità, in questo caso non è che stiamo parlando di cose particolarmente nuove, sì, perché le questioni di cui stiamo trattando io e lei questa sera, in altri paesi d'Europa, ma anche nel resto del mondo, penso all'Argentina per esempio, che è un paese pieno di italiani, diciamo, o di persone di origine italiana, queste cose le hanno regolamentate da tempo. Ecco, però, perché c'è sicuramente una differenza tra regolare le unioni e le coppie omosessuali, cosa che in Italia ancora non è stata fatta, e la questione invece delle adozioni da parte di queste coppie, la possibilità di avere figli, di adottare. Pensiamo a quello che è successo in Francia, dove nel primo caso è andato tutto più o meno liscio. Quando si è affrontato anche il secondo aspetto, è scoppiata anche una discreta protesta. No, quali sono i paesi? Facciamo confusione, ecco, perché qui non stiamo parlando di adozioni. L'adozione si riferisce al caso di una coppia che voglia adottare un minore abbandonato, quindi c'è un minore, sì, in uno stato di adottabilità, che è in un orfanotrofio, in un istituto, e quindi viene affidato a una famiglia. Questa è l'adozione. Il caso di cui parliamo oggi è completamente diverso. Una è la mamma biologica, è vero. Si tratta del fatto che c'è una donna, o potrebbe essere anche un uomo, che ha un figlio che non ha un altro genitore, quindi non è stato riconosciuto da un altro genitore. E questo bambino già oggi cresce in quella famiglia, quindi avrà 5, 6, 7, 8 anni, la bambina di cui parliamo ha 5 anni, e in questi 5 anni questa bambina è cresciuta con queste due donne che sono state le sue figure genitoriali. Ora, qual è la situazione di questa bambina? È che sulle carte la mamma è una soltanto, l'altra persona è una estranea. Sì. Questo vuol dire che se la madre biologica muore, per esempio, la bambina perde anche il contatto con l'altra figura genitoriale, che non è nulla per lei sulla carta. Chiaramente questa è una follia anche solo immaginarlo. Sì, ma pensi, ma anche cose più banali, perché poi parliamo sempre della morte, per fortuna la morte è un caso estremo. Sì. La mamma non biologica, in teoria, non potrebbe andare neanche a scuola a prendere la bambina, perché la scuola non potrebbe affidarla a una persona che non è nessuno. E invece cosa succede? Perché ci sono già in Italia, io non so se lei avrà delle cifre, diverse, guardi, migliaia di, credo, 2000. Si parla di migliaia di bambini. C'è un'associazione, che una bellissima associazione, si chiama Le Famiglie Arcobaleno, sì, che sono appunto questi genitori che si sono riuniti in associazione. E quello che dicevo, appunto, il secondo genitore appunto non è assolutamente niente, e quindi in questo caso che cosa si va a fare? Non si va a dire si prende un minore, lo si porta in una famiglia che non è la sua, quali sono i requisiti di questa famiglia? No, noi abbiamo già un minore che cresce, che è nato e cresce in quella famiglia, e stiamo semplicemente riconoscendo una situazione di fatto. Ora, uno può dire, ma a me questa situazione di fatto non piace, io non sono d'accordo, sono contrario. Il tema è che non si può essere contrario alla vita, alla vita quotidiana. Questi bambini esistono, sono già lì, non è che uno dice io sono contrario, che facciamo, glieli togliamo? Evidentemente questo non è possibile. Quello che si deve fare, che ci piaccia oppure no, in modo del tutto privo di approcci ideologici, dire qual è l'interesse di questo bambino, l'interesse di correre il rischio, nella malaugurata ipotesi che il genitore biologico per esempio muoia, di essere affidato a un istituto? Oppure pensiamo anche ai due genitori che, per esempio, come succede nelle coppie eterosessuali, succede nelle coppie omosessuali, pensiamo a due genitori che si lasciano. Sì. Il bambino è stato col genitore biologico e l'altro genitore per, facciamo, 10 anni. I due genitori si lasciano, le due persone, in teoria quel genitore non biologico che mi ha visto crescere il bambino, lo ha educato, gli vorrà bene come il bambino vorrà bene a lui o a lei, potrebbe non vederlo mai più. Qualcuno però qualcuno potrebbe pensare che questo è un bene, perché chi crede invece e teme questa genitorialità omosessuale potrebbe dire è un bene quasi che guardi, io le dico questo, la la genitorialità non è omosessuale o eterosessuale, c'è una buona genitorialità e una cattiva genitorialità. Io, per dirle la verità, ci sono delle coppie eterosessuali alle quali non affiderei neanche il mio gatto, cioè non è che uno è eterosessuale e quindi è un buon genitore, ci sono delle persone che crescono i figli con amore, con equilibrio, con armonia, e persone che non lo fanno, e questo non riguarda l'orientamento sessuale delle persone, questo, anzi ci sono tanti casi in cui il genitore addirittura poi uno soltanto. Però venendo al concreto, insomma, una legge andrà fatta, una legge, anche Renzi lo ha annunciato, l'autunno potrebbe essere il momento, però che legge, visto tra l'altro che il nuovo centrodestra, vostro alleato al governo, è contrarissimo, oggi Giovanardi l'ha detto, se lo scordino di fare una legge sulle adozioni gay, non so se ricomprendeva anche questo caso che lei ci ha spiegato giustamente essere diverso, però insomma la contrarietà del vostro alleato è netta, cioè dove, con chi la fate questa legge? Conoscendo Giovanardi, lui sarà contrario a qualsiasi cosa, però guardi, io quello che direi ai nostri alleati di governo del nuovo centrodestra, ripeto, è che qui noi non possiamo continuare a rifiutarci di esercitare la responsabilità e anche il dovere che ci è stato dato, che è quello di governare questo paese. Allora, poiché questi sono temi importanti, tant'è che su questi temi si sono discusse grandi campagne elettorali, la campagna elettorale di Obama l'ultima volta, quella di Hollande ancora più recentemente, quindi sono temi che accendono l'interesse del paese, se no io e lei non staremmo parlando di questo in questo momento. Allora, dato che, ripeto, la magistratura ci incalza, la Corte Costituzionale stessa di recente ci ha intimato a noi Parlamento, a noi legislatori, di legiferare sulle coppie omosessuali, c'è stata una sentenza di non più di due mesi fa, nella quale la Corte ha usato un'espressione molto inconsueta, ha detto che il legislatore deve legiferare con estrema urgenza, con estrema sollecitudine. Datevi una mossa, ho capito, però allora, lei pensa che questa pressione spingerà anche il nuovo centrodestra ad appoggiare una legge? Il nuovo centrodestra deve farsene una ragione, nel senso che poiché se noi non legiferassimo, alla fine, ripeto, come è successo con la fecondazione medicalmente assistita, dove il ministro è del nuovo centrodestra, sull'eterologa, alla fine è stata la Corte Costituzionale a prendere una decisione con una sentenza peraltro immediatamente applicabile. Allora io chiedo alle persone del nuovo centrodestra, noi intendiamo delegare la funzione legislativa ad un altro potere o ordine dello Stato, o vogliamo fare il nostro mestiere di statisti, nel migliore delle ipotesi, o quantomeno di legislatori? Scalfarotto, ho l'impressione che anche Renzi non sia molto favorevole alla questione delle adozioni. Cioè... No, questo non è corretto. Allora, Renzi ha detto, sin dalla campagna delle primarie 2012 e poi nella campagna del congresso 2013, ricordo una trasmissione televisiva con Cooper, Lo Civati e Renzi a Sky con una domanda diretta, nella quale Renzi ha detto, noi non faremo una legge sul matrimonio come in Francia o in Spagna, faremo una legge sulle unioni civili comprensiva della stepchild adoption. Proprio perché... Questo caso di cui stiamo parlando adesso. Esatto, sarebbe l'adozione del figlio del partner. Proprio perché in questo caso, ripeto, non si va a introdurre un diritto o una facoltà nuova, che poi per me personalmente non vedo neanche grandi problemi a fare, ma insomma lasciamo stare, ma andiamo semplicemente a sanare situazioni già esistenti e a evitare che eventi temuti e certamente non favorevoli possano mettere in difficoltà un minore, cosa che io credo dovrebbe mettere d'accordo tutti, Nuovo Centrodestra, Forza Italia, Sinistra, Ecologia e Libertà e quanti altri, per mettere tutti le 5 Stelle, tutti d'accordo che quando un minore si trova in una situazione di difficoltà, noi dobbiamo andare a garantire a quel minore che la sua famiglia, quella che lui, bambino, bambina, riconosce come la sua famiglia, sia protetta anche in caso di avversità. Questa è una questione di civiltà, non è una questione né di destra né di sinistra, e chi non lo capisce, io penso, agisce in un modo che è negativo proprio per i minori. Senta, ci sono novità dal Consiglio dei Ministri? Lei non si troverà lì, lei è sottosegretario, però Consiglio dei Ministri e naturalmente essendo sottosegretario non posso dare anticipazioni. No, vabbè, pensavo che magari fosse uscito qualcosa, siccome stiamo lì guardando le agenzie, ma al momento... Le guardo guardo come le guardate voi, naturalmente ciò che viene discusso per ragioni d'ufficio non viene poi anticipato per radio in diretta. Giustizia, il tema giustizia, lei è ottimista, verrà fuori qualcosa di buono, perché soprattutto per che cosa? Per velocizzare la giustizia? Ma guardi, io penso che sia una delle questioni centrali del Paese, perché poi la giustizia in particolare, secondo me, poi quella civile, ha degli impatti anche sugli aspetti dell'economia che sono molto importanti, la certezza del credito, la possibilità di vedersi dare ragione quando si ha ragione, cosa che in Italia spesso è un problema. Io penso che questo serva anche, per esempio, ad attrarre investimenti dall'estero. Oggi un imprenditore straniero che volesse investire in Italia, una delle ragioni per le quali non lo fa è perché per arrivare a risolvere un contenzioso in Italia ci vuole il triplo del tempo che in Germania e in Francia. Ho capito, questo lo sappiamo tutti, però insomma, vabbè, dobbiamo aspettare che esca fuori qualcosa da questo CDM. Una domanda però gliela voglio fare, perché Renzi e il governo avete fatto numerosi annunci. Ora, noi ieri, parlando, non è un suo tema, perché lei è sottosegretario alle riforme, è una questione economica sull'IRAP, perché a fianco al bonus da 80 euro era stato annunciato un taglio dell'IRAP del 10% per le aziende. Noi ieri, parlando con un imprenditore serio, Florenzo Vanzetto, dico anche chi è, della VRM di Bologna, un'azienda con 200 dipendenti che fornisce la meccanica per grandi marche di auto e moto, ci ha detto non è pervenuto il taglio dell'IRAP, cioè lui non ne sa niente. È possibile che si fanno degli annunci e mesi dopo si perde completamente traccia di una cosa così importante? Ma guardi, a me non risulta che sia così, nel senso che mi sembra che questo governo, oltre agli annunci, abbia fatto delle cose delle quali io non ho memoria. Appunto, lei diceva che io mi occupo di riforme, noi l'8 di agosto abbiamo per esempio votato una riforma del bicameralismo perfetto, certamente soltanto il primo passo di un iter più lungo, ma di riforma del bicameralismo perfetto si parlava da 30 anni e non ci si va bene, però qualcuno muovere, dice giustamente legge... non si mangia di bicameralismo ma imperfetto. Questo, guardi, questo io su questo no, vabbè, alla dubbio. Lunga dico, si mangerà anche di quello, però le dico anche perché arrivarci alla lunga, sì. Sa che cos'è? Che poiché le nostre istituzioni non funzionano, anche portare a casa delle decisioni, anche quando lo si vuole con grande determinazione, io penso che a Renzi si possano rimproverare anche delle cose, ma non l'assenza di determinazione. Il tema è che quando le regole non funzionano, anche volendo perseguire degli obiettivi con grande determinazione, poi la farraginosità dei processi ti impedisce di portarle a casa. Però, per esempio, io ricordo gli 80 euro dei quali sempre si è parlato, diciamo, in modo spesso, secondo me, superficiale, ma sono stati sicuramente una boccata d'ossigeno che poi vedremo anche quali effetti avrà sui consumi, perché ricordiamo che per ora dicono pochi, almeno Confcommercio. Sì, diciamo anche, su questo sono anche meno pessimista degli altri, sì. Perché gli ultimi dati che abbiamo visto, a parte che sono dati sul PIL che abbiamo visto colpiscono anche la Germania, meno 0,2 di crescita per la Germania è un evento praticamente senza precedenti negli ultimi anni. Allora, gli ultimi dati riguardavano la fine di giugno, quindi vediamo quale sarà l'effetto su un tempo un pochino più lungo, però le assicuro, portare a casa quegli 80 euro non è stata una cosa semplice e si è fatto nei tempi previsti, e quelli di 80 euro saranno una misura strutturale. La stessa cosa è valsa per il decreto competitività, che è servito per esempio a ridurre il costo della bolletta per le nostre imprese, e tutto il resto. Insomma, però c'è, adesso non mi faccio puntualizzare, però su questa cosa per esempio dell'IRAP si è un po' persa di vista, cioè sono stati fatti tanti annunci e non sempre è seguito quello che era stato detto. Magari ci vuole più tempo per vedere gli effetti, come diceva lei, oppure anche per districarsi nelle norme, decreti attuativi, non lo so. Però questo è quello, io l'ho riportato quello che ieri ci ha detto un imprenditore. Scalfarotto, grazie, buona serata, ci fermiamo grazie. Qua. Grazie. Abbiamo le informazioni dalla borsa, torniamo subito dopo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi ricordo anche che potete provare ad indovinare il nostro personaggio della settimana. Il primo indizio è che è un personaggio globale, noto in tutto il mondo. Aggiungiamo subito, è nato in America. si vincono i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. 800 24 00 24, c'è Francesco che ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera dottore, un secondo che parcheggio la macchina perché stavo guidando. Allora niente, una parentesi, volevo dire che l'amico che è intervenuto prima mi fanno morire da ridere, ma è quello di sinistra. Chi è il mio amico? Scalfarotto. Scusi, è Scalfarotto, esatto. Mi fa morire da ridere perché comunque fanno mille riforme, non ne hanno fatta una. Io sono un consigliere comunale di centrodestra, sì. E mi fanno ridere quando sento parlare questa gente qui che fa mille riforme, non le vedo, comunque va bene, lasciamo stare. Ma mi intervento su Di Battista, io sono comunque centrodestra, però per me quello che dice Di Battista non è sbagliato, cioè nel senso che se noi non proviamo a capire le radici del terrorismo, noi possiamo buttare tutte le bombe che vogliamo, ma troveremo sempre gente pronta a farsi saltare in aria o andare in guerra. E del resto, guardi, è quello che abbiamo fatto fin qua, perché non è che di guerre non ne abbiamo fatte, l'abbiamo fatta in Iraq, l'abbiamo fatta in Afghanistan, e il risultato per ora è questo. Sì, infatti, quindi, secondo me, d'accordo con lei. Il terrorismo e secondo me Di Battista ha detto una cosa giustissima: un conto è capire le radici, e un conto è appoggiare il terrorismo. Ma quella era ben distinta, quella cosa lì. Secondo me ha contestualizzato una frase per me che non ha avuto senso, nel senso, per quanto io non sia grillino, perché sono di centrodestra, quindi. Va bene, Francesco. Ogni tanto qualcuno che diciamo non sta nei recinti, no, delle appartenenze partitiche, dice quello che pensa, no? Ci vuole, se no, che fine facciamo? Giovanni da Milano, buonasera. Giovanni non c'è. Proviamo con Fabio, che chiama invece dalla provincia di Venezia. Fabio? Sì, buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera. Io avevo un quesito riguardo al fatto della genitorialità per quel caso di quella coppia lesbica, ed è il fatto che se si dovesse far vivo il genitore naturale maschio di quella donna, cosa farebbe il tribunale a questo punto? Istituirebbe un terzo genitore? Io credo che sì, la regolamentazione da questo punto di vista qui ha molte lacune, anzi forse proprio non c'è, quindi sia assolutamente necessaria, non solo in questi casi per adozione da parte di coppie omosessuali, ma anche per i casi dove una coppia eterosessuale poi dovesse venire a mancare un genitore. Però scusi, lei secondo me adesso, io non sono un esperto, però fa un po' di confusione, perché in questo caso la bambina è nata con procreazione assistita eterologa effettuata all'estero, cioè il padre è un donatore che ha fatto la sua parte e poi non c'entra più niente. Ha lasciato ogni diritto confermato, insomma. È così che funziona. Ha rinunciato ogni diritto, ho capito. Beh, comunque, sì, però penso siano comunque argomenti da regolamentare bene, perché potrebbero succedere, lasciando spazio aperto, soprattutto appunto quando poi ci sono queste forme, no, di concepimento, potrebbe lasciare spazio in futuro a grosse difficoltà, diciamo, come il caso ad esempio del mescolamento, no, degli embrioni, cose del genere, che quando avvengono, che è successo, poi, che è successo in una quello lì più, come questa. Sì, grazie Fabio, più che la legge lì è stato un errore dell'ospedale per quanto riguarda lo scambio degli embrioni all'ospedale Pertini. Giovanni da Milano, l'abbiamo recuperato? Sì, eccolo. Buonasera, grazie. Prego. Niente, io volevo commentare appunto questa sentenza del Tribunale di Roma. Secondo me non è bello che i tribunali, cioè più che sul contenuto, sul metodo, nel senso che il tribunale che invade le competenze del legislatore è una cosa che secondo me, a mio parere, non va bene, perché... Però guardi, scusi se la interrompo, sì, perché però... io non credo che il tribunale invada, come dice lei. Il tribunale gli viene posta una questione da qualcuno che fa un ricorso e deve decidere, e decidendo nel vuoto normativo che c'è prende una posizione, però è costretto a farlo. Questo perché la politica invece da anni non decide, capito? È vero, però cioè non è che il tribunale se ne poteva lavare le mani, No, questo è vero, però poteva non fare lui creazioni legislative, cioè dire non, questa cosa non è normata, non mi esprimo, non intervengo, come sulla registrazione a Grosseto. A me non è tanto il contenuto che mi interessa, non è un problema, io penso proprio al metodo, perché se il legislatore, che è libero di fare determinate scelte, sì, possono essere più o meno condivisibili, però lui è lì, è stato eletto e decide, può scegliere o non scegliere, dice io scelgo che certe cose secondo me non sono diritti, no? Poniamo, una maggioranza decide così. il tribunale non può dire no, sono diritti, perché allora a quel punto i giudici devono essere eletti se vanno loro a fare, a normare situazioni, capisce cosa intendo? Guardi, loro, questi giudici qua del Tribunale di Roma hanno semplicemente accettato un ricorso da parte di questa donna, la compagna della mamma biologica della bambina, che ha chiesto di poter essere riconosciuta come madre adottiva, e evidentemente facendo riferimento a quelle che sono le norme esistenti in Italia, altre, non una legge che non c'è, ma altre norme, le hanno detto sì, potevano dire no. Che fanno certe sì, no, no, certo, questo è chiaro. A me sembra un'invasione di campo, magari mi sbaglio, per carità, però mi preoccupa un po'. Va bene, bisogna sempre ricordarsi che dal giudice ci si arriva per una causa, per una richiesta, per un ricorso, per un qualche cosa che parte dai cittadini, dai legali dei cittadini, non sono i tribunali a voler intervenire. Quindi poi è una risposta e a quel punto poi la può valutare anche come diceva lei. Andiamo con chi andiamo? Con Carlo, che chiama dalla provincia di Varese. Sì, pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Senti, io mi volevo collegare sempre a questo argomento del giorno, a quanto pare, per la sentenza. E ha una trasmissione, non so se l'ha fatta lei o il conduttore di prima, che ero in macchina con mia madre un po' di tempo fa, dove c'era la figlia di Vecchioni che parlava di un caso analogo. Eravamo noi, sì. E giustamente mi ha fatto la riflessione, dicendo, ma come queste coppie omosessuali che hanno diritto a avere questo desiderio di maternità e paternità, però sollevando questo tipo di problematica quando si lasciano, creano nell'opinione pubblica, e anch'io come donna anziana, il problema allora forse abbia sbagliato a insistere che era giusto che questi aiutassero i bambini, perché stanno inflazionando con le loro tematiche un po' tutta la tematica che riguarda il minore. Di tutto va bene che l'adozione, siamo stati tutti convinti che era un diritto che doveva essere dato a queste persone, ma adesso questo diritto crea altri problemi di natura diverse che ci sono nelle coppie normali, ma alla fine questo bambino non corre un po' troppi rischi essere adottato da una famiglia con due mamme o con due papà, perché le problematiche quando succedono i disguidi che nelle coppie avvengono, se una coppia omosessuale le problematiche sono ancora maggiori, alla fine è una montagna troppo grossa da scalare, mi diceva, che forse abbiamo sbagliato a insistere noi tutti per garantire questi diritti. Sostanzialmente sì, questo. Va bene, grazie. Che dire? Adesso intanto però rilanciamo il nostro personaggio della settimana e aggiungiamo, allora, abbiamo detto che è un personaggio globale, noto in tutto il mondo, è nato in America, è stato in questa settimana sulle prime pagine dei giornali. Proviamo così, 800 24 00 24, vogliamo regalargli questi biglietti di Andy per la mostra di Andy Warhol e vediamo se ce la facciamo. Traffico. Sì. L'attualità, anche d'estate. Siamo sempre a caccia di buone notizie e continueremo a raccontarvele anche con Si può fare, edizione weekend, il sabato e la domenica mattina a partire dal weekend del 13 di settembre. Abbiamo trovato una buona notizia. Si dice sempre che in Italia non si favorisce l'istruzione tecnica, che bisogna favorire invece l'istruzione tecnica perché c'è bisogno di persone preparate per lavorare nella produzione, nella manifattura. Cosa c'è di meglio di una fabbrica di di motori nel distretto dei motori dell'Emilia Romagna, in particolare a Bologna. Parliamo della Ducati e la Lamborghini, che parte adesso del gruppo Volkswagen, hanno organizzato per settembre un corso di studi con diploma in fabbrica. Ne parliamo con la dottoressa Elena Ugolini, che è preside del liceo Malpighi di Bologna, ma è anche membro della Fondazione Ducati. Buonasera. Buonasera a voi. Oh, allora, un bel progetto innovativo in Italia, perché per la prima volta si studia, si può studiare a scuola, ma anche, è rivolto anche a chi non studia più, ma si può avere una formazione proprio dentro la fabbrica, ma una formazione vera, perché non è uno stage, non si lavora, si studia, si impara. Come funziona questo progetto? Ora, il progetto nasce ispirandosi al modello duale tedesco, di cui si parla tanto, sì. Un modello che all'interno di quel paese ha sostanzialmente combattuto la disoccupazione giovanile, perché ha integrato in modo molto forte l'aspetto della formazione della scuola con l'aspetto del training on the job e della possibilità di imparare lavorando. Sì. Questo progetto nasce all'interno del memorandum che era stato firmato, ero ancora io sottosegretario di istruzione nel dicembre 2013 con la Germania, sì, col governo Monti, perché appunto si voleva promuovere questa integrazione tra scuola e lavoro ispirandosi al modello duale tedesco. Siamo riusciti a concludere questo progetto perché la Fondazione Volkswagen ha investito costruendo poi dopo la possibilità concreta di predisporre dei training center. Ecco, però spieghiamo anche come funziona. Spieghiamo anche come funziona, perché è interessante. Cioè, ci sono 48 studenti, o forse anche di più, perché il bando so che è aperto fino al 21 settembre. Sì, allora gli studenti che saranno interessati saranno 48. Che? E dovranno, chi vorrà iscriversi, sì, deve farlo andando sul sito dell'Istituto Aldini Valeriani, www.iav.it, e il progetto si chiama DESI, Dual Educational System Italy, ed è articolato in due anni scolastici, sì, che vengono svolti per alcuni mesi a scuola e per alcuni mesi dentro in le azienda, fabbriche, nei training center che vengono costruiti ad hoc, come succede poi in Germania. Dove? Siamo all'interno degli stabilimenti della Ducati, della Lamborghini, quindi diciamo parliamo proprio del top per quanto riguarda, insomma, non solo queste, ma insomma una parte del top dell'azienda, aziende motoristiche italiane. Quindi veramente una parte interessante, ecco, che le scuole stanno lavorando insieme, sì, ai tecnici delle aziende, e c'è anche il contributo ovviamente dell'esperienza tedesca, per riformulare un curriculum integrato in cui anche i tecnici insegneranno, per cui si parlerà di un imparare attraverso l'esperienza, di una riflessione attraverso un lavoro che viene fatto concretamente all'interno dei training center costruiti all'interno delle aziende. Come funzionerà? Funzionerà così: i ragazzi che verranno selezionati, e ricordo che si potrà fare domanda fino al 21 settembre, andranno a scuola da ottobre fino a gennaio, sì, e all'interno delle scuole comunque sarà privilegiato l'aspetto laboratoriale dell'insegnamento tecnico applicativo, con una grande attenzione, vabbè, certo, anche all'inglese ovviamente, sì, perché questi ragazzi devono sapersi poi e interfacciare con persone di altre lingue. Poi da febbraio a luglio invece ci sarà un training on the job, si sposteranno nelle aziende Ducati e Lamborghini, e rimarrà sempre una parte di riflessione teorica, però dando più spazio alla parte pratica. E ci sarà questo però per anche una specie di mini stipendio per, certo, quanto riguarda quella, certo, parte lì. Certo. Di quanto? Perché no, ma tutto l'anno, cioè tutto i ragazzi l'anno, tutto l'anno, avranno 600 euro netti al mese come borsa studio lavoro, perché si tratta proprio di un lavoro, cioè di un lavoro come studio e come applicazione nel training center, sì, impegnativo, e lo riceveranno tutti i mesi dal, come appunto dei ragazzi che sono impegnati sempre, a parte le serie estive ovviamente. Poi diciamo anche che c'è una parte, un 25% dei posti, io leggo, che andranno riservati a chi proviene da famiglie con un indice ISEE non superiore ai 15.000 euro, quindi un'attenzione anche per chi ha, diciamo, viene da ceti meno abbienti, come si dice. Certo. Una cosa, si capisce chiaramente il vantaggio per i ragazzi, perché fanno un'esperienza straordinaria, studiano e imparano come si lavora dentro un'azienda così importante. Per quanto riguarda le aziende, Ducati e Lamborghini, qual è l'investimento che viene fatto, l'interesse, l'investimento che viene fatto su questi giovani? Per le aziende è essenziale avere dei tecnici e degli operai in grado di lavorare in modo responsabile e con competenza, e inserendosi in modo positivo all'interno di una squadra. Perché alcuni di questi poi potrebbero trovare, è previsto, troveranno lavoro anche là dentro. La speranza è quella, ragazzi, ovviamente. La speranza è che i ragazzi trovino lavoro non solo in Ducati e Lamborghini, ma in tutte le aziende. Anzi, questo è uno degli obiettivi del progetto: formare dei ragazzi non solo per le aziende, quindi in modo egoistico per le due, sì, aziende, ma anche proprio vengono formati per tutto il territorio. La nostra terra, una terra dei motori, esiste una grande tradizione, e magari questi potrebbero essere ragazzi che faranno delle nuove aziende, o piccole o grandi, oppure andranno a lavorare in delle officine con grandi competenze, perché la Fondazione Volkswagen che investe su questo progetto ha uno scopo che va al di là dell'aspetto meramente commerciale o legato alle imprese. Questa è una domanda che chi magari ci sta ascoltando si farà, dirà: ma sentiamo sempre dire che le aziende devono andare all'estero, che non possono investire in Italia perché ci sono troppi limiti, troppe difficoltà burocratiche o legate alle regole del mercato del lavoro, eccetera. Invece, che cosa spinge la Volkswagen a investire anche in formazione e nel futuro di questi giovani futuri operai, dipendenti, tecnici? Che cosa in questo spinge? Caso io non sono un'esperta, sono laureata in filosofia, ma mi sono appassionata nel tempo all'aspetto della cultura tecnica, anche frequentando Ducati. Abbiamo costruito in Ducati un laboratorio che si chiama Fisica in Moto, dove si vede come la fisica spiega la meccanica delle moto, perché ho visto che all'interno delle aziende comunque ci può essere questa grandissima attenzione alla formazione, perché nella formazione c'è il futuro. Per quanto riguarda la storia di Ducati, io vedo che la Volkswagen sta investendo in questa azienda, così come il Lamborghini, valorizzando il management interno e con l'idea che comunque sia importante che l'azienda sia radicata in questo territorio e che valorizzi le competenze che ci sono nel nostro paese, nella nostra regione. Pronto? Sì, va bene. Benissimo, grazie, ci salutiamo qua. Buona serata, Elena Ugolini. Bella notizia questa, continuiamo a raccontarvela, l'ho già detto, nel weekend di Radio 24 a partire dal 13 settembre con Si può fare, il programma del buongiorno del sabato e della domenica. Andiamo con Daniele che chiama da Vicenza, buonasera. Buonasera. Prego. Io sono, vi sto ascoltando da un po', anche in riferimento della buonissima relazione che ha fatto la responsabile della Ducati. Sì, però abbiamo 30 secondi, anche... un intervento in 30 secondi che dobbiamo fare il giornale radio. Vale. Ma certamente, non ti preoccupi. Parlavo, l'ho chiamato per quanto riguarda l'adozione di questi infanti. L'unica cosa come ho relazionato alla vostra centralinista è che manca l'esperienza di avere un padre e una madre. Beh, sicuramente questo, ragazzi, non ce l'avranno mai, avranno due madri, questo è evidente. Scusi, ma dobbiamo fermarci qua, grazie. Giornale Radio, torniamo tra poco. Si può fare! L'attualità anche d'estate. Ma dove dove vuoi andare, ti amo. Vuol dire che per la mentalità britannica, talvolta leggermente razzista, gelato vuol dire Italia, cioè gli inglesi amano venire in Italia a mangiare gelato e quindi hanno messo questo come un tocco ironico, diciamo, se vogliamo. Bambina, ti voglio, ti sento, ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo. Da italiano mi sento umiliato per come veniamo trattati, come vedete anche dai giornali esteri, eccetera. Certo, molto è anche colpa nostra. Soltanto le infrastrutture di natura. Questo è l'audio in diretta da Palazzo Chigi, la fine del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi che sta illustrando i provvedimenti. Renzi che ha accolto i giornalisti, la stampa, alla fine del Consiglio dei Ministri con un carretto di gelati e si è fatto fare dal gelataio un cono con gusti di crema e limone. Poi l'ha offerto simbolicamente ai giornalisti. Ha detto ironicamente, ho visto che nella, si riferiva alla foto dell'Economist, nella foto è confezionato, che è buono per carità, ma io preferisco quello artigianale, crema e limone, grazie, aveva già detto stamattina su Twitter. E poi che altro? Abbiamo deciso di ironizzare e scherzare sulla copertina dell'Economist. Ma secondo voi c'è razzismo nei confronti dell'Italia? Traspare dalla copertina del settimanale britannico Economist, che mette la Merkel e Hollande nella barchetta fatta con l'euro che affonda, Draghi che svuota con un secchiello e Renzi col gelato in mano. Della serie, gli italiani sono buoni solo a fare il gelato. Torniamo un attimo a Palazzo Chigi, sentiamo cosa sta dicendo Renzi. Estendiamo le garanzie per investimenti alle imprese e questo è un passaggio molto importante. Io il 20 settembre sarò a Baku. Sbloccati 3,8 miliardi di euro di opere cantierabili, uno dei titoli, insomma adesso piano piano vedremo che cosa viene fuori da questo Consiglio dei Ministri. Che altro in tema di giustizia, Di Pietro? Io credo personalmente che Berlusconi sia andato in politica per risolvere i suoi problemi giudiziari e quindi affidare al ladro il controllo della banca a me non piace. E così che non mi piace questa equazione, non mi piace il fatto che sia Berlusconi a riformare la giustizia. Mi spiace, signora, che lei sia poco io ho informato. Raccontato agli italiani nel 2001 che Dell'Utri era un mafioso, adesso è in galera, ma quando scusi, l'ho raccontato Travaglio. Non l'ho raccontato per fare del business, Travaglio, l'ho raccontato per dare delle questo. Notizie e lei sta nel partito che è stato fondato da un mafioso, ma si vergogni, si stia zitta Travaglio. E non parli Travaglio, di business che non ora? Sa neanche che cosa vuol dire. Litigio Travaglio Comi su Forza Italia, su Berlusconi, su nodo giustizia. La proposta di alcuni esponenti di Forza Italia e spalleggiati anche dalla Lega di far dire i sermoni, le preghiere all'interno delle moschee non più e non solo in arabo ma in italiano. Zaia. Già capire il tema delle prediche in italiano, chiedetelo all'imam, so che alcuni lo fanno, ci permetterebbe di capire quali sono i messaggi che poi ne vengono fuori. Dall'altro dico anche che qui se non c'è collaborazione è ovvio che noi siamo legittimati a pensare che quando uno non vuol fare la predica in italiano ha qualcosa da nascondere. Da cosa nasce la proposta di Matteo Salvini? Nasce dal fatto che lo Stato, il governo, sta soffocando le imprese. Semplice, ci devono essere le stesse Vabbè, regole questo è Renzi, in Italia come in diretta. Sentiamo. L'Italia ha il vezzo, non mi permetterei mai di dire vizio, di irrobustire, che è un modo carino, a mio giudizio, di peggiorare la normativa europea, complicandola, inserendovi elementi di difficoltà il codice degli appalti potrà naturalmente modificare qualcosa rispetto alla normativa di riferimento europeo, ma ha come principio che ciò che viene consentito dall'Europa è ciò che deve essere fatto in Italia. È un meccanismo in cui stavolta l'Europa ci aiuta. Insomma, vedremo. Adesso sta affrontando il tema degli appalti. Tra gli annunci che sono stati fatti proprio in questi minuti al termine del Consiglio dei Ministri, vi leggo questo: fuochi d'artificio anche questa volta. 4,5 miliardi di euro per gli aeroporti e 3,8 miliardi di euro per opere cantierabili, così è stato detto da subito. Vedremo. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flex e superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach, on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. L'estate è qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un po' e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città Beach on the Beach questa sera a Roma. Salutiamo l'assessore alla cultura Giovanna Marinelli, buonasera. Buonasera a voi. Allora, finalmente qualcuno, parto subito così con un endorsement, con un complimento, che si occupa di qualcosa che ha a che fare col turismo in Italia, gestire i flussi del turismo, decidere dove si vogliono mandare i turisti, in quale musei piuttosto che in altri, perché voi avete deciso, poi adesso capiremo se la strategia è giusta, ce lo dirà lei, però almeno ci state provando, che ci sono dei musei romani che diventano gratis, musei minori, in cambio si aumenta il prezzo di alcuni musei, diciamo, più importanti, maggiori. Ho detto bene? Sì, nella sostanza sì. Minori significa semplicemente che sono musei più piccoli, più specializzati. Sì. E maggiori sono quelli in generale che hanno le grandi collezioni storiche, per spiegarci. E quindi facciamo qualche esempio. Quali sono i musei, allora, che diventano gratis? I grandi musei, tra i grandi musei ci sono i musei capitolini, per esempio. Certo. I musei di Villa Torlonia, sì. Il museo della Rapacis. Sì. Sappiamo di che si parla. Tra i musei minori invece ci sono delle chicche straordinarie, come il Museo Napoleonico, il Museo Barracco, il Museo Bilotti, insomma andrebbero uno per uno illustrati. Ecco, questi musei minori, scusi, diciamo minori, lei dice delle chicche, giustamente, sono musei che adesso diventano gratis innanzitutto. Noi stiamo lavorando ad una riorganizzazione dell'offerta museale, quindi un piano molto più ampio e degli spazi espositivi. Prima quanto si pagava in questi musei? Si pagava una cifra variabile, stavamo tra gli 8 e i 12 euro, dipendeva dal tipo di museo. E l'afflusso di turisti non era soddisfacente, immagino? No, diciamo che questi erano musei che ovviamente per dei turisti mordi e fuggi che vengono a Roma a due giorni quando va bene, non era proponibile. Non era la priorità, ma non era la priorità neppure per i romani. E credo che ci siano molti romani che devono scoprirli. E quindi adesso sarà possibile, diciamo, come sentiamo dire ogni tanto da anche lei che è assessore ovviamente, ma anche da grandi esperti di gestione del turismo, cioè bisogna convogliare i flussi, mandare le persone, visto che l'Italia è piena di cose meravigliose, mandare i turisti anche a vedere le opere minori, altrimenti fanno tutti la coda davanti ai musei vaticani e non si capisce più niente. Quindi questo è il tentativo. Invece negli altri musei, per compensare, avete alzato un po' il prezzo. Di quanto? Sì, il prezzo è di un euro per i romani e di due euro per i turisti. Parlando comunque di cifre molto contenute. Facciamo un esempio, Musei Capitolini a quanto si arriva? Siamo con il prezzo? Tra i 15 e i 16 euro, e parlo del biglietto intero, poi ovviamente ci sono le riduzioni di tutti i tipi naturalmente. Ecco, queste tariffe, queste politiche tariffarie, riduzioni, ci sono, perché sembrano un po' la chiave del successo anche dei grandi musei all'estero. Io sono andato a curiosare Tate Gallery, gratis, British Museum gratis, Louvre non è gratis, però ci sono la prima domenica del mese, fino a 25 anni, gratis, e poi si paga un biglietto di 14 euro. Dunque, io Io credo che, appunto, come le accennavo, il problema sia una riorganizzazione complessiva. Come dicevo, questa è veramente una prima tappa. Dobbiamo lavorare soprattutto su un piano di promozione adeguato e, per l'altro verso, su un piano tariffario, cioè migliorare l'accessibilità attraverso un piano tariffario, card, sì, pass, eccetera, che garantiscono anche ai turisti una semplificazione delle procedure. Poter avere, sì, un'unica card con la quale puoi entrare in tutti i musei, tanto per cominciare quelli del Comune di Roma, ma magari in un futuro tutti quelli della città, sì, ecco, già questo semplifica molto la vita, come si dice un turista. Credo che il tema della creatività di questi musei ci possa aiutare. Sicuramente dobbiamo lavorare su un piano di promozione e di valorizzazione, che vuol dire svolgere una serie di attività all'interno di questi musei che consentano di valorizzare il loro patrimonio. Vabbè, questo lo auspichiamo anche noi. Quindi in tutta questa riorganizzazione delle tariffe, però non ho capito, ci sono cioè la strategia qual è? Ecco, la domanda è questa, perché quello che sembra di capire, guardando, ripeto, alle grandi città, è che il prezzo del museo sia tenuto comunque basso e ci sia la possibilità di andarci anche gratis, perché poi si cerca di lavorare sull'indotto. È quello che state cercando di fare anche voi o cos'altro? Certo, quando parlo di riorganizzazione non parlo soltanto di riorganizzazione dell'offerta e della bigliettazione, ma parlo anche di riorganizzazione dei servizi. Intendo dire dai bookshop, per intenderci, fino alla ristorazione, che è il famoso indotto che nei grandi musei europei consente di fare delle economie complessive, naturalmente. Certo. Perché poi alla fine il tema di un rapporto economico tra il numero dei visitatori e quanto viene incassato da quel museo è un fatto importante, naturalmente. Senti, io però una domanda gliela devo fare anche sul Circo Massimo, perché il Movimento 5 Stelle ha chiesto al Comune, credo, non so se lei è competente come assessore, forse no. No, io questo. No, naturalmente no. Però, sì, è stata fatta questa richiesta, c'è ovviamente una conferenza di servizi, sì, che prenderà una decisione in merito, naturalmente. Al momento però le risulta che c'è stata già una risposta iniziale negativa, questo è quello. Credo che ci sia stata una risposta più che negativa, una risposta che ha posto delle condizioni. Sì. Ecco, che credo sia anche corretto. Nel che senso condizioni? Che poi, questo non glielo so dire, mi dispiace, ma non sono io il soggetto giusto per questa domanda. Ma lei pensa personalmente, questo glielo chiedo, lei personalmente, che ci sia qualche problema a ospitare una manifestazione come Italia 5 Stelle, 3 giorni, 10-12 ottobre, a Circo Massimo, dopo che sono state fatte tante altre manifestazioni, dai Rolling Stones non so, io ho visto una foto addirittura con gli aerei delle forze armate parcheggiati dentro il Circo Massimo. Sì, probabilmente in passato è stato fatto qualche uso non, diciamo, improprio. Nello specifico credo che sia semplicemente l'esigenza di rendere compatibile quello che viene, si pensa di fare, rispetto al piano archeologico e al rispetto dell'area, però ritengo che la cosa sia assolutamente conciliabile. Secondo lei è fattibile, insomma, cioè, ma se fosse lei quello come sempre, la darebbe. Si tratta di un po' di buona volontà da tutte le parti, naturalmente. Va bene, grazie, buona serata. Grazie a lei. Buona grazie. Serata. Arrivederci, grazie. L'assessore Giovanna Marinelli alla cultura a Roma. Andiamo con Daniela che ci chiama da Bologna. Buonasera. Buonasera. Prego. Siamo per rispondere al quiz che avete lanciato. Sì. Il personaggio, secondo me, è Bill Gates. Per quale motivo Bill Gates? Perché è stato uno dei primi ad aderire alla campagna per sovvenzionare la lotta alla ricerca contro la SLA, ed è uno dei personaggi più in vista, facendo i gavettoni, quelli con l'acqua ghiacciata, dei personaggi famosi, è comparso molti giornali, molte testate di giornali. Poi noto in tutto il mondo, è nato in America, ci stava, ma non era Bill Gates, non era lui. Grazie comunque Daniela per aver chiamato. Andiamo con chi andiamo? Nicola da Grosseto. Non c'è eccolo, Nicola, buonasera. Buonasera, volevo tornare sull'adozione omosessuale. Per dire che veniamo da decenni in cui c'è stata una tutela estrema del minore, anche quando è iniziato il divorzio, la protezione dei bambini, la protezione del focolaio, familiare, l'assegnamento alla madre in via preferenziale, l'importanza di rimanere nell'ambiente, diciamo, familiare. E questo sta sulla scia di tutto, poi, che quella che è la psicanalisi costruita sull'importanza del rapporto con la madre, l'importanza del ruolo del genitore a maschio e del genitore femmina. Addirittura Melania Klein, che ha costruito le teorie sullo sviluppo della personalità, del rapporto del seno. Mi sono perso io, Nicola, mi sono perso completamente. Sto parlando di tutta quella che è la nostra cultura, che è anche la psicanalisi, Freud, l'importanza del rapporto con la madre. Tutto costruito su questo, e poi arriva Ivan Scalfarotto, o comunque questa nuova modernità, che ci dice che queste sono tutte cazzate di fatto, no? Cioè, non è più da tutelare il bambino, ma l'esigenza di avere il figlio per la coppia che sia omosessuale. Premesso che io Nicola, io devo dare la borsa adesso, mi scusi, buona serata, borsa. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 0024, cari ascoltatori. Intanto per quanto riguarda il personaggio della settimana, su Twitter ci scrivete, ve lo dico così togliamo un falso indiziato, non è Bill Gates, come ha chiamato l'ascoltatore prima, ma non è neanche Barack Obama. È nato in America il nostro personaggio, è noto in tutto il mondo. Aggiungiamo un altro indizio, va, in questo momento è un periodo in cui è un po' giù, è così. Andiamo con Dino da Modena, buonasera. Buonasera Maurizio, buonasera, io volevo, non ho mai parlato di questioni personali, ma volevo proprio intervenire sulla morale che fanno i cattolici, sì. Che fanno i cattolici in generale sulla mamma e il papà. Io sono figlio di una ragazza madre con tre fratelli degli anni 60, perché ho quasi 60 anni, sono di Modena, così qualcuno forse mi riconoscerà anche, no? E io mi sono salvato quando ho smesso di andare in chiesa, quando ho smesso di sentire quei falsi parolai. Perché si è salvato? Perché prima andava in chiesa, cosa le dicevano? Dunque, guardi, tanto ero discriminato da tutto così, e poi quando sono andato in catechismo, che ho fatto la prima comunione, non la cresima, no, quello che mi ha fatto più male, ma la discriminazione, la morale che fanno, ma comunque mi hanno detto, dunque eravamo degli anni 60, può capire anche lei, in un paesino, come eravamo visti, quattro fratelli di una ragazza madre, no? Che non sappiamo neanche chi è nostro padre. Comunque, quello che mi è stato discriminante, no, dopo che ti racconti una bugia 10.000 anni di cosa qui e là, ed ero discriminato io con la catechista, con quella che mi insegnava, gli ho detto ma perché, cioè prendevo sempre la colpa io su tutto, i figli dei nobili, dei notabili del paese, solo che dice è stato lui e io prendevo sotto. Vabbè, insomma, lei si è sentito discriminato alla Chiesa Cattolica per essere figlio di ragazza madre negli anni che anni erano? Anni 60. Insomma, forse c'erano un po' di pregiudizi su questo. Adesso sì, appunto, lei dice siamo cresciuti tranquillamente e è andato tutto bene. Grazie Dino, è caduta anche la linea nel frattempo. Andiamo con Giovanni da Roma, buonasera. Anzi, sentiamo un attimino Renzi a Palazzo Chigi, ancora un po' di conferenza stampa. Il racconto italiano di un paese che ha bisogno dell'Europa per salvarsi è un racconto che soffre di un terribile provincialismo. Noi siamo quelli che l'Europa, che hanno costruito l'Europa e che fino a questo momento hanno dato molto e preso a livello economico meno di quello che hanno dato. Ancora stiamo a parlare d'Europa, vabbè, insomma, gli annunci sono già stati fatti, qualcosa ve l'ho letto, poi più tardi faremo un riepilogo, che ne so, non so quanti altri annunci dobbiamo attenderci stasera da Renzi. Giovanni? Eccomi, pronto? Prego. Allora, guardi, dottore, l'ascoltatore precedente parlava di discriminazione, io afferrando questo concetto voglio parlare degli 80 euro di Renzi, sì. Per me sono una voce fuori dal coro, perché non posso intonare il peana, perché indubbiamente questi 80 euro servono alle persone bisognose, però violano quello che è la base di uno Stato sociale, cioè l'equità, liquidità, perché in Italia viene data 11 milioni di persone, ma ce ne sono altrettanti con lo stesso reddito che sono pensionati o lavoratori autonomi, forse anche disoccupati, in questo aspetto mi sfugge. E uno Stato non può comportarsi così. In una famiglia, se c'è un pollo, si divide per tutti, non è che due figli mangiano e due non mangiano, perché le esigenze sono le stesse, è dirompente, è un provvedimento a mio avviso dirompente e va condannato, perché non si può, ho stesso il concetto e volevo sentire il suo parere. La ringrazio. Grazie. Intanto dunque, allora riepiloghiamo. Un decreto per dimezzare l'arretrato dei processi civili, il processo durerà la metà del tempo, ha detto Renzi, poi d'ora in poi il giudice che sbaglierà pagherà. A proposito delle intercettazioni, c'è un disegno di legge delega che prevede che non venga toccata la sfera personale. Sono titoli naturalmente questi, poi bisognerà vedere i contenuti. Poi abbiamo già detto il Premier che risponde al settimanale Economist e dice: noi siamo seri, al di là del fatto che ci ritraete, mi ritraete in questo caso col gelato in mano, e però poi ha offerto il gelato ai giornalisti per dimostrare che saremo pure seri, però sappiamo anche scherzare. Andiamo con Dario da Milano, buonasera. Buonasera, stavo sentendo anch'io Renzi in diretta, no? Pazienza. Sì, pazienza, no, dice lei, vabbè. No, va bene. No, mi va bene anche avere Renzi in diretta, perché abbiamo sentito prima il vice ministro, no, nella prima parte. Il sottosegretario Scalfarotto, Scalfarotto, sì. Ecco, sottosegretario Scalfarotto prima, anche lui in diretta, che tutto sommato è un grandissimo ottimista, anche lui come esatto, cioè, un altro Renzi tale quale. Ma io volevo cogliere le due cose per dire a tutti quanti, a lei e anche a me, che questa sera abbiamo scoperto scientificamente una cosa fondamentale, e cioè? Non c'è nessunissima differenza tra omosessuali e eterosessuali, nessuna, siamo tutti uguali e questo è dimostrato, perché ci sono gli omosessuali intelligenti che studiano, che approfondiscono le cose, che le conoscono e sviluppano, come ci sono gli etero che fanno così, e ci sono gli omosessuali imbecilli e ignoranti come come gli etero e omo uguali, che prendono per rifondelli la gente, come stanno facendo queste due persone questa sera. No, quindi, dato scientifico, direi da oggi in avanti non si deve più discutere della differenza tra omo e etero, si tratta solo di dire quanto sono ignoranti, imbecilli e bestiace quelli che dicono che gli 80 euro non hanno ancora prodotto risultato, non si sa perché, o forse perché le famiglie risparmiano gli 80 euro. Ma se gli 80 euro vanno a chi ha 25.000 euro lordi all'anno, vuol dire che vanno a singole famiglie, sì, che hanno tra i 1.800 e i 1.700 al mese lordi, ma dove cazzo li risparmiano questi 80 euro? Lei ha fatto tante domande, si è dato anche alcune risposte, va bene così. Io mi appello adesso ad un altro ascoltatore, Andrea da Pisa. Sì, buonasera a tutti. Sì, mi tiri fuori lei da Dario di Milano. Sì, no, in realtà volevo semplicemente provare a indovinare il personaggio della settimana. Chi è, secondo lei? E secondo me è Gabriel Omar Battistuta. Perché? Perché durante la settimana... Intanto Renzi è andato via, è finita la conferenza stampa, chiuso, tutto a Palazzo Chigi. Prego, Andrea. Perché durante la settimana è uscita la notizia secondo cui avrebbe voluto tagliarsi le gambe, il suo problema alle gambe nel momento in cui ha lasciato il calcio. Sì, sì, è vero, ha colpito molto anche a me, però non era Battistuta, in effetti lei era non è sulla strada giusta, perché il personaggio è molto diverso, però ci stava tutto dentro, perché è noto in tutto il mondo, è nato in America, in questo periodo è un po' giù il nostro personaggio della settimana. Andiamo con, fra un po' aggiungiamo un altro indizio, Francesca Carla dalla provincia di Monza, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io vorrei esprimere un mio parere, e non dico che quello che penso io è la cosa più giusta, però la esprimo così in modo molto semplice. Vada, no? Tranquilla. Ecco, a proposito appunto di queste inseminazioni, eccetera, eccetera, poi nascono tutti questi pasticci così, io posso capire... No, no, nascono dei bambini, sono... non dei pasticci, eh. No, ma dico, sì. Non è una cosa religiosa il mio, eh. Il mio sì. Pensiero così, no? Guardando anche solo sì. La natura, che l'uomo ha già stravolto la natura, le api impazziscono, non riescono neanche più a produrre il miele, eccetera, perché tutto stravolge, l'uomo stravolge tutto. Allora io posso capire che una donna desidera avere un bambino, anche due, una coppia omosessuale, ma che roba è? Allora dico, una donna vuole avere un bambino e non è possibile l'inseminazione artificiale del marito, del compagno, ma non andare a cercare uteri in affitto, perché magari c'è uno che vuole avere dei figli, oppure andare a fare chissà che cosa. Quelle cose non sono più naturali, la scienza ha fatto passi da gigante. Francesca, lei ha i suoi dubbi, giustamente, ognuno, sono temi talmente delicati che ognuno coltiva i suoi dubbi sul piano etico, ha ragione, però c'è altra gente che la pensa diversamente, cosa dobbiamo fare? Non è che la natura, il concetto suo di natura non esiste più da sempre, cioè l'uomo ha sempre superato la natura facendo cose, come dice lei, innaturali. E che dobbiamo fare? Disastri però a volte, come sta succedendo adesso. Quali sono i disastri che di adesso? I disastri, ma tutto quello che sta capitando, tutti questi cambiamenti climatici, e arriva un tifone di qua, e dire terremoti, tutto, ma l'uomo va giù, trivella giù nei mari, e su nel cielo, ma è impossibile, la terra è quella lì, la terra va anche amata, la terra va amata, va. È vero, questo è vero, bisogna volerle bene. Grazie Francesca Carla, grazie, buona serata. Se vuoi bene, ma grazie. Poi dai un calcio, dai una bolla, alla fine quella muore. Grazie Francesca, buona serata. Buonasera. Marco dalla provincia di Lucca. Ah, buonasera, sono Marco da Viareggio. Sì, io mi fa fare la pausa Marco e poi facciamo, devo fare una pausa, vero regia? Sì, poi facciamo subito con lei. Pausa. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora Marco, eccoci qua di nuovo con lei. Eccoci, prego. Qua, le rubo solo qualche minuto. Io adesso sono un portatore di handicap. Prima, negli anni 80, facevo parte di una grande compagnia di rivista che era la Baistrocchi di Genova, da dove sono usciti, più vecchia compagnia d'Italia, fondata nel 1913, studenti universitari. Uomini, facevano anche parti da donne, dove poi sono usciti tanti personaggi tipo Villaggio, Tortora, De André, ha scritto musiche così come Bindi, eccetera, eccetera. Bene, e ora mi trovo invece su una carrozzina per motivi ovviamente di salute, e volevo solo dire al dottor Maurizio che la sua voce è pacata, riflessiva, intelligente, che lascia spazio a ciò che devono dire, al di là del fatto che io, essendo uno studioso di teologia, ammetto ogni cosa, quindi mi va bene tutto. Per Bravo, me la Marco, cosa importante sì. È Dio. Dio giudica lui, non spetta a me giudicare. Grazie ma Marco, parte... io mi prendo i suoi complimenti, mi fa piacere che lei ci segua con interesse e la ringrazio per questo. Facciamo. Volevo aggiungere qualcosa Marco, scusi, forse... No, lo... volevo solo sì. Ringraziarla per la compagnia che mi ha tenuto, io la sento anche la sera, anche dopo mezzanotte. E augurarle un buon proseguimento, chissà grazie. Che un giorno non si ci veda, va grazie. Bene? Sì, magari ci vedremo, che ne so, se viene qua in via Monterosa noi ci siamo, insomma, quasi tutti i giorni. Patrizia da Lucca. Buonasera. Prego. Telefono per il personaggio, secondo me è Papa Bergoglio. Perché? Perché è nato in America. È vero? È un personaggio globale, vero? È un personaggio globale. In questo periodo è un po' giù? È un po' giù. Perché è un po' giù in questo periodo? Non lo so questo. In effetti questo era un altro indizio. Patrizia, non era il Papa, non era Papa Bergoglio, grazie. Aggiungiamo un indizio che stravolgerà tutte le idee che vi siete fatti fino ad ora sul personaggio della settimana, per il quale chiediamo il vostro intervento e regaliamo i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. L'indizio è che questo personaggio è favorevole alla legalizzazione della prostituzione. Rock, dance, ball, rock, dance, ball, show. l'obbligo di sermoni in italiano nelle moschee. È una proposta, una richiesta che arriva per esempio dal coordinatore Forza Italia Lombardia Maria Stella Gelmini, ex ministro, sostenuta anche dalla Lega e da altri consiglieri regionali, Emiliano Romagnoli, sempre di Forza Italia. Buonasera a Haret Amer, presidente nazionale Giovani Musulmani d'Italia. Buonasera Maurizio, buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Ho pronunciato bene Haret Amer? Haret Amar, ecco. Come Amar, amare, cioè, no? Se sbaglio sempre qualcosa, Haret, che dobbiamo fare? Amar. Qual è il nome? Amar? Il nome è Amar? Nome è Haret, il cognome è Amar. E due errori su due. No, ma non ti preoccupare, ti perdoniamo. Cosa ne pensate di questa proposta? Che bisogna dire a onor del vero, che ne sappia io. C'è il problema, si dice, del reclutamento di terroristi, possibili terroristi, jihadisti nelle moschee, è stato detto, c'è questa paura, non si sa cosa viene detto nelle preghiere. C'è da dire che in tutte le regioni del mondo la preghiera si fa nella lingua, in ebraico, in latino, in buddista, e la fanno in lingua indiana, e quindi la vostra si fa in arabo. Però residenti in Italia parlerete anche italiano. Intanto come si fa adesso la preghiera nelle moschee? Allora, sono due argomenti differenti innanzitutto. Sì. Per quanto riguarda il sermone, è una cosa, le idee sono molto chiare su questo. Invece per quanto riguarda reclutamento e altre voci di corridoio, sì, di quelle sinceramente poche sono le informazioni, ma molte sono le voci. Purtroppo si strumentalizzano parecchio queste voci a scopo politico senza questo. Guardi, sicuramente le do ragione, però diamo due punti fermi. Uno, è stato mandato via un imam da parte di Alfano, sì, quest'estate, che però diceva voglio vederli uccisi uno a uno, e si riferiva agli ebrei. Questo risulterà anche a lei. E poi che risultano esserci jihadisti che partono dall'Europa, non solo dall'Italia, alcune centinaia dall'Inghilterra, dalla Francia, ma anche dall'Italia, e vanno in effetti in Iraq a combattere per l'ISIS. Questi sembrano punti fermi, o no? È stato espulso una persona, sì, un imam nel nord Italia. Sinceramente non ho informazioni chiare sul motivo per il quale sia stato espulso. Però c'era l'audio, c'era l'audio su internet, è andato a sentirlo. Io non conosco l'arabo, per cui non ho potuto, però l'ho ascoltato e ho cercato di... Io sinceramente l'audio di questo imam non l'ho sentito, però per quanto riguarda i sermoni in italiano, sì, si fanno nella lingua madre, o che sia arabo o meno. Per esempio, ci sono le moschee gestite da cittadini italiani o meno, di origine magari pakistana, bangalese oppure albanese, che la gestiscono in lingua loro, semplicemente perché il maggior afflusso di fedeli parla quella lingua. Però si deve dire che, visto che siamo in Italia, è bene parlare anche la lingua italiana. Dico anche, non solo la lingua italiana, magari la maggior parte degli immigrati purtroppo ha un registro molto molto sintetico della lingua italiana, il dizionario non è molto vasto, per cui che si parli sì la lingua d'origine, ma che si parli anche l'italiano, perché quel che avviene nelle moschee è cosa pubblica. Noi siamo disposti ad aprire le nostre moschee, ed è un'iniziativa che è stata fatta in tantissime città, a tutta la cittadinanza italiana, non musulmana, che sia cristiana, che sia di altre religioni o che sia laica senza un credo preciso, perché le preghiere del venerdì, che sono preghiere che uniscono la maggior parte dei fedeli, sono pubbliche alla fine e possono essere seguite da tutta la cittadinanza, per cui parlare in italiano e far comprendere agli ascoltatori e ai presenti quel che si dice è cosa molto importante, non solo per loro ma anche per noi, che cerchiamo di far conoscere l'immagine vera della religione islamica, che è una religione che trasmette pace e ricorda a tutti gli esseri umani che siamo fratelli nell'umanità e che siamo fratelli per un unico scopo, che è vivere insieme, conoscerci a vicenda e costruire una vita buona e fruttuosa per il prossimo, non come purtroppo alcuni media, non voi fortunatamente perché invitate anche le altre voci, ma anche alcune correnti politiche tipo la Lega, che ultimamente ci ha ci ha abituato a questo, non ultimamente, sono anni ormai, io sono cresciuto in Italia, sono nato e cresciuto in Italia con sempre questa Lega che ogni anno tira qualcosa, ormai ci siamo anche un po' annoiati di questa carta che se la giocano ogni anno, magari si inventassero qualcos'altro. C'è da dire una cosa, che la Lega ne spara tante e poche raggiungono l'obiettivo, cioè spesso si tratta di proposte, poi sarà che per il fatto che la Lega non ha mai governato da sola e quindi le sue proposte non vengono condivise. Beh, per dirne una, in Lombardia la Lega è al governo, cioè il presidente della regione, quindi potrebbe fare tutte le leggi contro gli immigrati che vuole. Compreso il referendum, mi faccia dire una cosa, compreso il referendum, questa è l'ultima proposta, per nelle città prima di costruire nuove moschee, anche questo è stato proposto, che ne pensa? Il referendum, può ripetere un attimo, mi scusi? Il referendum in una città tra i cittadini per chiedere se sono favorevoli o contrari alla costruzione di una moschea, sì. Ma va bene che si chieda il parere dei cittadini, tuttavia anche la Costituzione italiana permette la costruzione di luoghi di culto per le religioni. Noi la moschea viene costruita non solo per i musulmani, ma come ho detto prima diviene un simbolo per la città stessa, viene costruita per a Milano per esempio, la moschea che si vuole costruire è per tutta la cittadinanza ed è accessibile a tutta la cittadinanza senza esclusione di nessuno. Quindi siete favorevoli a maggiore trasparenza, al fatto che si parli in italiano eccetera, ma questa sua posizione è diciamo la posizione dominante all'interno di chi frequenta le moschee in Italia secondo lei, o è sua personale? È la posizione, noi siamo giovani musulmani, quindi la pensiamo proprio con mentalità italiana, però attenzione, questa proposta fa capire quanto si conosce poco della comunità islamica in Italia. Nella maggior parte delle moschee, la stragrande parte delle moschee, il sermone viene o tradotto in italiano, magari anche dopo il sermone, però viene tradotto e spiegato ai fedeli che parlano la lingua italiana. Per cui l'invito nostro alla Lega, alla Forza Italia, dice, venite a vedere in moschea come funziona e così vi poi magari dopo ci faranno proposte più realistiche, proposte che non ci sono tuttora. Però io la invito invece, faccio un invito a lei, ad andare a cercare questo video su internet di questo imam, che non so più qual è la città italiana nella quale lui predicava, che è stato espulso da Alfano perché appunto inneggiava alla morte degli ebrei. Vorrei davvero sapere il suo punto di vista. Voi, anche voi, temete che nei luoghi di aggregazione o anche nelle moschee ci possa essere, come dicono i servizi segreti, piuttosto, io non so chi è che poi dà queste notizie, gli jihadisti che si formano in Europa e che poi vanno a combattere, temete che questo possa succedere? Io sono a capo di un'associazione islamica giovanile che conta migliaia di persone e tocca migliaia di famiglie, e le dico che io non ho mai conosciuto questi jihadisti dei quali parlano. Io sono tutti i giorni che incontro famiglie musulmane o giovani musulmani, soprattutto i giovani sono quelli col sangue più caldo, magari se ci sono dovrebbero essere tra i giovani, però non ne vedo di questi jihadisti dei quali parlano. Dobbiamo fare una pausa, resti un attimo in linea, scusi se può, e dobbiamo fermarci per 30 secondi. Niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Senta Aretta, io le voglio rifare la domanda, perché lei mi ha detto io di questi diciamo supposti jihadisti o ipotetici terroristi che frequentino i luoghi islamici in Italia non ne ho mai conosciuti, però nemmeno io ho mai conosciuto un mafioso, però la mafia in Italia c'è. Secondo lei questi jihadisti ci possono essere, ci sono qualcuno anche in Italia, o, allora, o è un'invenzione lei, della stampa? Che lei non abbia conosciuto dei mafiosi è una cosa, mi fa piacere per lei, però sicuramente i servizi italiani, i servizi di sicurezza italiani e tutti i media italiani hanno conosciuto dei volti famosi dei mafiosi in Italia, per cui è una cosa reale che c'è di fatto. Invece per questi jihadisti, quando mai ne abbiamo sentito parlare oppure abbiamo visto un processo in Italia di un jihadista o di una cellula che quindi forma jihadisti? Secondo lei potrebbero essere anche invenzioni, diciamo, un po' ad arte o della stampa o dei servizi segreti? Più che altro non dico siano invenzioni dei servizi segreti o altro, però sono voci che fanno piacere a correnti politiche che le strumentalizzano per islamofobia o per creare, per alimentare un disprezzo verso tutti i musulmani e verso gli immigrati in generale. Si disegna ormai il musulmano come una persona ostile, una persona che cerca comunque di attaccare il prossimo e non essere un cittadino attivo nella società. Senta, il nostro invito come comunità musulmana a tutti i fedeli che seguono la religione islamica è di essere attivi nella società italiana e produttivi nel tessuto sociale. Va bene. Senta, un'altra cosa le voglio chiedere. Noi oggi parliamo anche di una sentenza di un tribunale di Roma che stabilisce la possibilità per una coppia di donne omosessuali, lesbiche, di adottare, diciamo, la bambina, la figlia biologica di una delle due, l'altra è solo, diciamo, la compagna, e adesso ha ottenuto l'adozione. Tempo fa ho letto che un imam, credo iraniano, in Svezia ha sposato due donne lesbiche. Qual è la sua personale posizione in tema di coppie gay? Ma la posizione islamica a riguardo è molto simile alla posizione cristiana, perché sono è il nucleo alla fine delle religioni. Noi crediamo fermamente nella forza della famiglia e nel nucleo familiare composto da un uomo e da una donna che si sposano e danno alla vita dei figli. Non ci possono essere delle coppie di gay ufficializzate dalla legge italiana, allo stesso modo di quel che pensa la religione cristiana. Peraltro noi tra la religione cristiana, le altre religioni monoteiste o altro, ci ritroviamo su tantissimi punti, uno dei quali è proprio la questione dei gay. Però guardi, io le do una notizia, che in Italia ci sono molti cristiani, ma su questa cosa qua delle coppie gay la gente credo che ormai se ne freghi di quello che dice la Chiesa e sono favorevoli, invece lei no. No, io personalmente non sono favorevole, e peraltro quando dico io cristiani non intendo cristiano sulla carta, ma intendo cristiano praticante che cioè, quindi segue una percentuale, secondo lei quanti sono? Ormai basta. Quanti sono secondo lei i cristiani praticanti in Italia? Questo non lo so sinceramente. 10%? Può darsi, dipende poi dal peso che si dà alla parola praticante. Sì. Perché una persona... L'ha detto lei. Va bene, abbiamo capito comunque su questo che non c'è alcun tipo di, diciamo, di novità, di apertura. Siccome la regione islamica non lo consente, Non la definirei come apertura. Siamo aperti a qualsiasi pensiero. Questo qui. Sì, ma non al riconoscimento dei diritti di una coppia gay, questo no. Non ai diritti, la persona soprattutto sull'adozione poi, perché va a compromettere la vita anche di un terzo che non ha potuto scegliere né niente. No, guardi, lei sull'adozione è in buona compagnia anche in Italia, sull'altro forse un po' meno. Comunque grazie, buona serata Aretha Mer. Niente, buona serata anche a voi. Giovani Musulmani d'Italia, grazie mille per essere stato con noi. 800 24 00 24. Abbiamo il TG1? Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Allora abbiamo Francesco da Roma. Sì. Prego Francesco. Buonasera. No, volevo, stavo sentendo quando un ascoltatore, lei gli ha chiesto cosa ne pensasse su 80 euro, se era giusto o meno. E lei mi risponde a parole di lutto, meno di dire cosa ne pensasse. Qual era la domanda? Me la rifaccia? Se l'80 euro, gli stava dicendo se era giusto o meno che avesse dato 80 euro a chi già percepisce l'utile, e lei non gli ha risposto. Io sono favorevole agli 80 euro. Perché non l'ho detto prima, scusi? Perché c'era quel tizio che da lei voleva. L'ho detto adesso. Ho capito, però mi ha dato l'impressione. Ma chi è l'avvocato dell'altro ascoltatore? No, non è l'avvocato, è che lei ha dato l'impressione di non voler rispondere, è tutto qua. A volte succede, sai, nell'economia della trasmissione. Vabbè, una cosa si passa da un argomento all'altro. È una cosa così importante che tocca molte persone. Lei è contrario, qual è la domanda? È un'offesa all'intelligenza. Sì. Sono 80 euro comprati agli italiani, hanno comprato gli italiani con 80 euro, ha capito? È una mossa brutta, anti-italiana, sociale, brutta, ha capito? Sì. E cosa avrebbe dovuto fare con quei 5-6 miliardi di euro? A chi non ha bisogno, anche visto che erano pochi lettori, non erano molti per lui. Però la mossa che ha fatto è stata sbagliata in maniera assoluta, proprio. È un'offesa all'intelligenza e agli italiani che hanno difficoltà. Perché un'offesa all'intelligenza, scusi? L'idea era quella di darlo, di darlo ad una classe, diciamo, medio-bassa, che potesse spendere... Aspetti un attimo, Danilo, se lei è sicuro di quello che dice e non vuole sentire quello che dico io, se lei vuol sentire quello che dico io, allora parliamo. Se invece lei non le interessa, allora non glielo dico. Glielo dico? Interessa? Come no, certo. Ecco, mi ha rifatto la domanda lei, quindi sì. L'idea era quella di rivolgersi a una classe che poteva spendere quei soldi per riattivare il discorso dei consumi. Questa era l'idea. 80 euro a chi già percepisce inutile, quasi la trovo. Percepisce inutile, però sotto una certa soglia, capito? Non parliamo di milionari. No, guarda, io sono sicuro che erano i numeri di persone che percepivano questi 80 euro che erano allettanti per rendere. Per chi lo gestisce, capito? Va bene, questa è la sua opinione, grazie Danilo, grazie. È la sua opinione, ognuno c'ha la sua, non è la realtà, perché ognuno la vede come crede. Non è che voglio difendere, io sono abbastanza favorevole a quella misura, le spiego qual era la ratio che c'era dietro, dopodiché se mi dice era meglio darli ai redditi più bassi, forse sì, perché anche quelli erano consumi. Poi non lo so per quale motivo è stato scelto di fare, perché anche gli altri votano, votano anche quelli che prendono sotto i 1000 euro, votano anche quelli, ha capito? Pronto, c'è ancora Danilo? Erano meno allettanti. Perché erano meno allettanti? Non votano quelli che guadagnano meno di 1000 euro? Ascolti, quelli che hanno percepito 80 euro, era una marea di gente, impiegati, che poi ripetono i soldini, non era manco giusto prenderli. Era una questione di numeri, ha capito? Va bene, la scelta era una questione di numeri. Ho capito. E infatti ha avuto il 40%. Va bene, però va non bene. Solo non ha risolto il problema, anzi l'ha pure aggravato, ha preso anche per decidere, molta gente è rimasta molto male, ma molto male, ha capito? Ho capito. Grazie, Danilo, buona serata. Stefano da Roma. Sì, buonasera. Prego. No, io ho telefonato per il gioco, per il personaggio, che secondo me è il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Perché? Ma io già ho aperto la radio, che già il programma è iniziato. Poi si davano degli indizi, e soprattutto quello lì che in questo momento è in un momento di un po' giù, diciamo, un po' giù. Di abbassamento sulla notorietà oppure sulla... No, ho detto che era un po' giù, è un periodo che era un po' giù. Ecco, e allora penso lui, perché ora riceve molte critiche sul suo modo di condurre la politica. Però guardi, non è lui anche perché abbiamo detto che è americano. È nato in America. Va bene, grazie Stefano, grazie, buona serata. Buon proseguimento. Delia da Bergamo. Delia? Ci sente Delia? Eccola, prego. Ascolti, innanzitutto complimenti per la pazienza che ha ad ascoltare tutti. E per me il personaggio dovrebbe essere Woody Allen, sbaglio? Intanto perché secondo lei Woody Allen? Perché è nato in America, a New York. Poi in questa settimana per il film, per il Festival di Venezia. Sì. E mi dica subito se sì o no. No, non è lui, non è Woody Allen. No, allora niente. Intanto ne approfitto per fare i complimenti. Va bene, grazie. Grazie anche per la compagnia, perché ho 87 anni e sono... Quanti anni ha lei? 87. Vabbè, lei faccio io a lei i complimenti, grazie Delia. No, sono allettata da pochi anni. Sì. E la radio, la 24 ore, mi tiene tanta compagnia perché sono molto interessanti i vostri argomenti. Questo ci fa grandissimo piacere, grandissimo onore. Grazie Delia. Tanti auguri, buona serata. Chi abbiamo? Abbiamo Marco che chiama da Torino. Sì, buonasera. Prego. Io volevo intervenire in merito all'assessore alla cultura di Roma sui musei. Sì. Un intervento semplice, per carità di Dio. Non ho sentito parlare di politiche per la famiglia. Quando si va all'estero generalmente coi figli non pagano. Se noi pensiamo ai 15-16 euro che è ipotizzato per una famiglia di 4 persone, andiamo intorno a una cinquantina di euro per visitare un museo. Diventa impegnativo per una famiglia. Sì, io ho chiesto all'assessore delle tariffe, lei non è scesa nel dettaglio, perché facciamo un esempio, al museo del Louvre, lei se ha dei figli sotto una certa età non pagano, quindi pagano solo gli adulti, è quello che bisognerebbe fare anche qua. I musei sia a Parigi che Londra, sì. Dicendo un minimo di esperienza l'ho fatta in questo, e in Italia, parlo anche qui di Torino eccetera, le politiche poi per le famiglie dove ci sono dei ragazzini sono abbastanza sterili tutto sommato, cioè non è un tema che viene preso in considerazione, tutto qui. Un semplice intervento di vabbè, guardi, se è per questo oggi quando guardavo le tariffe dei vari musei all'estero, non ricordo più dove, forse era cos'era? No, non era il British Museum né la Tate Gallery, perché sono gratis, era il Prado di Madrid, i disoccupati non pagano. Ad esempio. E anche questo mi sembra una cosa, diciamo, possibile. Cioè, non nell'ordine delle cose è possibile. Far cassa, cioè, no, fai cassa secondo me con tutto l'annesso e connesso, cioè con le cose collaterali, con il ristorante, il bar, i mezzi di trasporto per arrivarci, il bookshop, dopodiché poi chiaramente c'è anche un pezzo del biglietto, però le agevolazioni ci devono essere per spingere la gente, altrimenti i musei come... Ma l'ha detto lo stesso assessore romano, la Marinelli, erano vuoti quei musei. Scusate, ma è un colpo di tosse. Erano vuoti i musei perché il prezzo era troppo alto. Adesso il prezzo è stato portato a zero. Ernesto da Latina, buonasera. Buonasera, buonasera. Senti, volevo intervenire per quanto riguarda l'adozione da parte degli omosessuali. Sì. Allora, senta, io ho sempre celebrato, dicevo, l'amore in qualsiasi forma perché non mi interessa, cioè l'amore è amore. Non ho capito lei che cos'è che ha celebrato sempre? L'amore in qualsiasi forma, cioè non mi dispiace che si amino fra uomini, cioè non è un problema il sesso della partner, sì. Purché sia amore vero, e non mi sono mai opposto al matrimonio, in quanto se uno giustamente passa una vita con un'altra persona ha il diritto di poter condividere con lui quello che ha costruito. Sì. Ok. L'unica cosa che mi sono sempre opposto all'adozione fra omosessuali, perché sinceramente la vedo una sciocchezza, in quanto si adotta un bambino che non ha possibilità di scegliere niente del suo futuro, cioè si trova con due genitori omosessuali, e poi una volta a scuola si troverà schernito dai suoi compagni di classe, sì. Che già da piccoli lo tratteranno male. Beh, questo però che verrà trattato male gli altri bambini, beh, sicuramente ci potranno essere delle ironie, questo è possibile, però questo può capitare anche se uno non ha il padre, non ha la madre, oppure ha la mamma grassa, o il babbo, che ne so, di colore. Feroci bambini da piccoli. Sanno essere feroci, ma questo capita in tante situazioni. Io però le faccio una domanda. Io non sono sicuro sul discorso dell'adozione, su come la penso o come non la penso, ma nel caso di bambini in orfanatrofi, senza coppie, come dice lei, eterosessuali disposte ad adottarli, meglio in orfanatrofio o meglio con una coppia gay? Meglio aspettare una coppia etero, secondo me. E se non arriva la coppia etero? Ce ne sono tante, non è no, mi risponda, di fronte a io non lo so, ma di fronte a questa scelta fra l'orfanatrofio e la coppia gay, lei cosa sceglie? Io sinceramente preferisco dare adozioni internazionali, cioè permettere anche a coppie... Non risponde, etero, va bene, di fronte a questo no. Non risponde. La risposta è uno o l'altro, Ernesto. È meglio aspettare l'orfanatrofio o qualcos'altro, sì. È meglio? Aspettare in orfanatrofio. Quindi meglio l'orfanatrofio di una famiglia omosessuale. Vabbè, questa è la sua opinione. Io su questo invece non sono molto d'accordo. Però, che dire, Ernesto? Tonio da Livorno, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Sì. Senta, io volevo fare una domanda un po' diversa da quelle arrivate finora. Sì. Volevo dire, com'è mai il prezzo del petrolio, con tutte queste guerre che ci sono a giro per il mondo, anche piuttosto gravi, è addirittura diminuito, quando invece prima bastava litigassero due in condominio, aumentava il prezzo del petrolio? Guardi, la invito a girare la domanda a Sebastiano Barisoni, va? Focus Economia, ogni pomeriggio dalle 17 alle 18. Poi 18:30 dalla settimana prossima, e sicuramente glielo dirà. Io non ne so niente. Traffico. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Allora, anche questa volta col personaggio della settimana 800240024 siamo stati un po' cattivelli, perché il personaggio, diciamolo, non è una necessariamente una persona umana, potrebbe essere qualcos'altro, non una persona. E allora ripetiamo, è nato in America, è noto in tutto il mondo, in questo periodo è un po' giù ed è favorevole alla legalizzazione della prostituzione, ma diciamo che non è una persona, diciamo che è una sigla, va. Abbiamo 10 minuti, se non indovinate adesso, non indovinate più. Vai! I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Incredible how you can. Postini, buonasera. Pronto. Buonasera. Le piace, buonasera. Ti piace, anzi diamoci del tu, Invisible Man dei Queen come scelta per parlare dei campionati del mondo di nascondino. Beh, non ti posso dire, non ti nascondo che sì. Cari ascoltatori, restate attaccati alle sedie, perché questo è l'appuntamento strabiliante che vi vogliamo dare a Bergamo. Cos'è? Il quinto campionato del mondo? Brembate sopra, provincia di Bergamo. Brembate sopra, provincia di Bergamo, quinta edizione del campionato del mondo di nascondino. Sembra una... Esatto. Così, una cosa per ridere, è sicuramente anche una cosa per divertirsi, però è anche una cosa seria, perché una cosa per liberarsi. Qualcuno parla addirittura di disciplina olimpica. Sì, potresti parlare con il futuro presidente della Federazione Italiana di Nascondino, diciamola così. Ah, perché tu che sei, diciamolo, editor del come si chiama il magazine? CTRL, come il tastino del computer. Ecco, sì, no, CTRL magazine. E sei l'organizzatore di questi campionati del mondo di nascondino. Esatto, uno degli organizzatori. Uno degli organizzatori. Vabbè, chiederti come ti sia venuto in mente, lo salto, perché boh, non so, in qualche angolo recondito della tua mente e dei tuoi soci avete pensato questa cosa. Beh, il nascondino è divertente, quindi è un grande momento di divertimento per adulti o anche per bambini. Ma gli iscritti per domani sono dai 18 ai 40-50 anni, quindi ce n'è di tutte le età, ti dirò. E come funziona? Funziona a squadre, funziona in modalità per cui ci sono diverse manche. I cercatori innanzitutto sono esterni, non sono dei giocatori delle squadre, e sono i giocatori del football americano dei Lions di Bergamo, squadra che ha vinto qualche campionato europeo. In buona sostanza ci sono diverse manche, appunto, in ogni manche gioca un partecipante per ogni squadra. Le squadre sono distinte dal colore della maglia. Sì. Siamo andati un po' in overbooking, come si dice, di iscrizioni. Quanti ne avete avuti? È il triplo, ti dirò. Quindi, quanti, scusa? Alla fine? Tutto saranno 160 persone. Quante squadre? 20 squadre. Quindi 20 squadre, ci sono i cercatori che sono i giocatori dei Lions di football americano, quindi gente, cioè, che corre veloce. Gente massiccia. Gente sì, massiccia. E qual è l'abilità del vero, diciamo, come si dice, giocatore del nascondino? Nasconditore. Dell'Invisible, l'Invisible Man. La mimesi, la velocità, diciamo, boh, la prontezza dei riflessi, sì. Strategia, capacità di nascondersi dove uno non si aspetterebbe mai. Ed evitare il placcaggio dei giocatori del football. Esatto. Qui sarà una cosa da ridere, assolutamente, da divertirsi. C'è anche un premio. Certo, la foglia di fico d'oro, ovviamente. Nel senso, come dalla... Come perché dalla ovviamente? Figlia, no? Perché ovviamente, beh, insomma, perché la foglia di fico nasconde ma... certo. È il vostro simbolo, insomma, la foglia di fico, dai. Sì. Siamo fichi. Siete fichi e sicuramente esatto. Vi divertirete. Va bene, buon divertimento. Sì, domani tutto il giorno, brembate sopra dalle 15 fino a mezzanotte. Non sarà solo il nascondino, perché ci sarà anche un bonus game con una corsa con la birra artigianale. Bevi, corri, corso ostacoli con la birrificio Elav di Bergamo. Cioè, corri dopo aver bevuto è un casino, però, cioè, succede un disastro. È tosto, sì. Poi ci sarà un festival musicale di tracce nascoste, le ghost track che ci sono negli album. Un DJ ha fatto una selection, ci saranno due ore di tracce nascoste montata una dopo l'altra. Ci sarà un falò di mezzanotte, insomma, fino a tarda notte ci sarà ancora gente nascosta da cercare. Beh, dai, un bel pretesto per divertirsi e per fare un po' di casino sano a Brembate. Grazie Matteo Postini, l'organizzatore dei campionati del mondo. Vediamo a Tokyo 2020. Magari. Cioè, l'idea vostra è arrivare a Tokyo 2020. Sì, abbiamo un ponte in Giappone, diciamo. Ci sono dei giapponesi che si sono entusiasmati all'idea. E si stanno mobilitando. Vedremo, va bene. Si stanno mobilitando. Vale. Tanto ce ne sono talmente tante di specialità strane che, non lo so, non mi stupirei. No, la più strana cos'è? Il curling resta sempre quella più, diciamo, più strana, ma anche più stupida, forse, vista la nostra. È quella Olimpiadi invernali, però sì, diciamo che sembra di giocare con i fai. Ma poi per qualcuno è sempre una cosa seria. Il curling, come per esempio in questo caso, sicuramente sarà per voi nascondino. Grazie Matteo. Epa, e che curling. A presto. Ciao. Bocca al lupo. Vabbè. Che facciamo? Abbiamo ancora un po' di tempo per intanto, Palazzo Chigi stava parlando prima, credo, il ministro dell'economia Padoan, però adesso non è più in diretta. E andiamo con Claudio da Milano. Buonasera. Buonasera. Io ritorno sull'argomento delle adozioni e le porto la mia testimonianza di genitore adottivo di due bambine di 6-8 anni. E le dico che questi bimbi hanno un vissuto veramente disastrato e è molto difficile già così creare quel legame genitore-figlio che però è essenziale per la riuscita proprio della famiglia. Aggiungere a questi bambini un carico in più, che è quello di accettare la diversità che potranno avere i loro genitori, io ritengo che possa essere veramente molto complesso e difficile da superare. E io lo dico con tutta la sincerità che ho nel cuore e che vivo e vedo anche negli altri genitori adottivi che come me affrontano questa esperienza. Quindi non è detto, è così scontato che non ci possono essere delle difficoltà in più. Io parlo per i bambini più che per i genitori. Va bene, no, ma è chiaro, quando si parla poi di adozione non è mai una cosa facile, però si parte già da situazioni difficili, perché se parliamo di orfani, già la partenza non era facile, quindi non è, cioè, va messo in confronto quello, alla ricerca sempre di un meno peggio, adesso lo dico così un po' cinicamente, ma alla fine è questo. Claudio da Verona, buonasera. Volevo intervenire per la risposta del quiz. Sì. Secondo me è il PIL. Perché? Perché è nato in America, adesso il PIL è molto basso. Bravo. Quello che ho capito, mi sembra che vogliono legalizzare la prostituzione. Esatto Claudio, esatto, lei l'ha indovinata. Alla fine poi l'abbiamo detto, non è una persona, è una sigla, e quindi insomma lei ha fatto 2+2 e ci è arrivato. Complimenti, vince i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. È il nostro ultimo vincitore per questa estate di Si può fare, perché siamo quasi in chiusura. Bravo Claudio. E andiamo allora con un altro paio di ascoltatori prima di chiudere. Paolo sempre da Roma. Eccomi. Prego. Dunque, io volevo chiamare circa una settimana fa, quando c'era ancora il discorso in piedi del blocco del contributo di solidarietà sui pensionati. Sì. Allora, io volevo dire questo: io sono un dipendente pubblico. Ricordo a chi caldeggia questo taglio, perché tutti ce l'hanno con gli statali, ricordo a tutti quanti che noi statali abbiamo lo stipendio bloccato dal 2010. A questo si aggiunge notizie di questi giorni che probabilmente questo blocco degli stipendi verrà procrastinato per altri 2 anni. Però è stato detto Del Rio, guardi, che non è così, sì, mi sembra che abbia detto che non è così. Adesso scusi Paolo, facciamo una cosa, prima che non ci facciamo la testa piena di rompercela, vediamo se poi danno l'annuncio, allora torneremo su questo argomento, altrimenti altrimenti non c'è bisogno. Mohamed da Novara, buonasera. Buonasera signor Maurizio. Prego. Allora, innanzitutto che Dio la benedica e Dio benedica Radio 24. Allora, noi abitiamo a Novara, abbiamo una delle più grandi moschee di sì. Piemonte. Allora, lì andiamo, io sono della Costa d'Avorio, andiamo anche ghanese, senegalese, altre nazioni. All'imam e ai dirigenti abbiamo detto un sacco di volte, sì. fate la riassunto del sermo in italiano. Però non c'è verso, non vogliono capire, loro fanno il sermone, noi non capiamo perché niente. Perché lei giustamente, scusi, da dove viene lei? Dalla Costa d'Avorio. Dalla Costa d'Avorio, lei l'arabo ovviamente non l'ha mai visto neanche in cartolina e quindi non capisce nulla. No, arabo non parlo, però prego, perché ho studiato solo per fare la preghiera del Corano. Sì. Quindi lei vorrebbe che il sermone fosse fatto in italiano per capirci qualcosa. E le dicono di no? No, loro dicono che non è possibile. Noi abbiamo fatto tante volte, però quanto c'è da dire, bisogna aiutare la moschea a pagare le bollette, l'acqua, la luce. Dicono solo quello in italiano. Quello lo dicono in italiano. È quello che ci fa arrabbiare, signor Maurizio. Sì. È quello che ci fa arrabbiare. Abbiamo parlato tante volte con i dirigenti della moschea di Novara. Adesso lei sta parlando per una moschea di Novara, non, magari se no sembra che generalizziamo. In questo caso sta dicendo che non fanno il sermone in italiano, però quando vengono a chiedervi i soldi lo dicono sì in italiano. Io non so se questa situazione è vera anche altrove, però come dire, Mohamed, intanto grazie per averci chiamato, ma lei continua ad andarci lo stesso in moschea, sì? Io sono un camionista, ogni volta quando venerdì, sì. quanto tempo vado in moschea o la sera. Alle volte c'è un argomento molto interessante sull'attualità, sull'Islam, però fanno tutti in arabo. Ho capito, perché Mohamed, perché non prova a cambiare moschea allora? Magari poi ci richiama e ci dice com'è andata a finire. No, perché Novara è uno dei più grandi moschee. Noi abitiamo nella provincia di Novara, però andiamo sempre lì perché è comodo. Ho capito. Grazie, buona serata. È tutto, ci fermiamo qua, torniamo con Si può fare a partire dal weekend del 13 e 14 settembre, sabato e domenica, il sabato alle 7:30 della mattina, la domenica alle 8:30 e poi insomma con la solita formula, grazie a tutti, io voglio ringraziare in particolare tutti quelli che hanno lavorato e collaborato, Andrea Piana, Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli, Riccardo Poli, ma poi anche Marco Lombardo, e quant'altri, Pietro la Corte Regia e al centralino assolutamente Nicole, Silvia, Rosa e Sabrina che danno sempre un apporto straordinario, strepitoso. Ciao a tutti, buon weekend, buon tutto, a presto anche da me, Alessio Maurizi, ciao.